a proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia la radio poi si cazzeggia, eh. No, sì. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Carissimo Pier, ciao, dove sei? Eccolo, come va? Bene, bene, arrivi? Sì. Sto arrivando, sì, tra due minuti sono qui. Mm. Sai perché iniziamo con questo inno della Roma cantato all'Olimpico, credo sia di un paio di anni fa, di un derby? Perché c'è Candelà. Perché dovrebbe esserci Candelà, ma adesso lo recuperiamo. No, perché oggi viene il miracolo di Capodanno. Oggi l'Olimpico torna in parte a riempirsi, cosa che quest'anno è diventata quasi un'eccezione. E questo significa che a Roma c'è voglia di calcio, c'è voglia, anche se poi ci sono varie situazioni, c'è la squadra che non va come dovrebbe andare, c'è la protesta dei tifosi, però oggi si riempie per un'iniziativa benefica e questo è, credo, un messaggio che poi vada anche raccolto e analizzato. Sì, ma la voglia di calcio c'è sempre, ovunque, anche in quei luoghi dove apparentemente sembra essere andata via, nel senso che il calcio ha una forza enorme. Figuriamoci in una piazza come Roma, diverso sono i problemi, diciamo, di ordine pubblico, la chiusura della curva e tutta una serie di polemiche sulla gestione della squadra, ma insomma non mi stupisce, ma fino a un certo punto, insomma, anzi non mi stupisce proprio, conoscendo Candelà, conoscendo la qualità e la quantità di campioni che ci saranno stasera e l'affetto dei tifosi. Non ci trovo niente di particolarmente strano. Sì, anche se è un paradosso su cui bisogna riflettere, perché la Roma non va così male da giustificare lo stadio vuoto. Questo no. Bisogna essere sinceri e dirlo. Sì, no, la Roma non va male. La Roma assolutamente non va male. La Roma è ancora in corsa, anche se onestamente in questa seconda parte della prima parte del campionato, passami questo gioco di parole, è stata sicuramente meno brillante rispetto ad altre, cioè non è una squadra in questo momento col vento a favore, a differenza per esempio della Juve, a differenza del Napoli, della stessa Inter, al di là della sconfitta contro la Lazio. Cioè la tendenza è al peggioramento, come dicono i meteorologi, quindi poi magari cambierà da gennaio. Lo scorso anno la Roma chiude l'anno solare benissimo, poi vinse Udine con quel gol fantasma del quale si è discusso per mesi di Astori, e poi cominciò la crisi, quindi dal 2016 potrebbe essere di segno completamente diverso rispetto al 2015, ed è l'augurio ovviamente nella testa e nel cuore dei tifosi della Roma. Che chiamiamo, che convochiamo 800 24 0024 per spiegarci perché si va a una partita benefica, che va benissimo, per carità, questa sera ore credo 20:45 le leggende della Roma, poi se lo troviamo ne parliamo con Candelà, che è l'anima di questa iniziativa. E perché invece non si va a tifare Roma? Oggi non so se hai letto, c'è Garcia che ha deciso di fare tutto lui, doppie sedute di allenamento per i giocatori della Roma, e sceglie lui e non quelli dello staff messo lì da Pallotta. Anche questo è un segno della temperatura di Roma, Pier. Sì, insomma, scusa un attimo, mi ero listato, vedo magari il taxi, e mi dice che il taxi l'ha pagato, se no non esci dalla macchina, e quindi mi sono un attimo perso. Capita. Quindi c'è Garcia che intanto da oggi fa doppia seduta per tutti, decide lui, non decidono più i preparatori fisici messi lì da Pallotta, a proposito di fiducia della società nell'allenatore, in questa situazione un po' incasinata, insomma, che c'è a Roma, e che ha mille sfaccettature. L'anno scorso i preparatori erano di Garcia e le cose non sono andate bene. I preparatori che sono stati messi quest'anno, con un po' di spettacolarizzazione all'americana, sono stati messi lì proprio per il disastro della seconda parte della passata stagione. Quindi insomma, non lo so, a me sembra che la Roma sia sempre al punto di partenza, che non è un brutto punto, perché insomma la Roma è arrivata negli ultimi anni per due volte seconda, e non è che è un... A parte che non c'è nessuna squadra, tranne in tempi recenti la Juve, abituata a vincere il campionato per decreto legge, che ha fatto meglio, no, numericamente, perché, parlando, per manifesta superiorità. Quindi dopo la Juve la Roma è stata sempre seconda, però forse troppi secondi posti in questi anni, cioè alla Roma manca una grande gioia, e se stasera, come sento, in tanti andranno a vedere questa partita è perché ritroveranno dei volti di giocatori che hanno vinto, che non ci sono andati vicino, che hanno proprio vinto. Sì, anche che ci sono lo stesso andati vicini, perché la Roma storicamente non sempre ha vinto degli scudetti. Fammi salutare un allenatore che invece sulla scia di un altro grande italiano, di quelli che in questi 2015 ci ha riempito d'orgoglio, e parlo di De Biasi, va in Albania. Andrea Agostinelli, ciao mister. Ciao, buongiorno a tutti. E hai firmato un contratto con il Partizan Tirana, giusto? Sì. Sì. Perché questa scelta? Non so che è accaduto. No, è stata una scelta, diciamo che il direttore generale del Partizan Tirana l'avevo trovato a Varese, che lavorava nel settore giovanile come scout dei giovani, e avevo conosciuto quando allenava il Varese. E, insomma, si vede che sono forse un po' piaciuto come lavoravo, e quest'anno, dopo che il Partizan era primo in classifica e ha cominciato così la squadra a tentennare un po', ha cominciato a fare 3 pareggi e 2 sconfitte, se non sbaglio, era avanti di 4 punti sulla seconda, adesso ce n'ha 3 dietro, e allora sai, lì è una piazza molto storica dell'Albania, perché ha vinto 15 scudetti, sì, le coppe, dunque la gente pretende di vincere. A questo punto doveva prendere un allenatore, si è ricordato di me. E poi con De Biasi si sono abituati bene, eh? Diciamo, intanto è arrivato Pierluigi Pardo. Ciao Andrea, auguri e complimenti. Mi mancherai un po', mi mancherai, però insomma. Ma io un po' ci starò, non ti preoccupare, perché io la famiglia mia non la lascio proprio. Bene. Vai tranquillo. Di questo sono contento. In generale, credo. Ecco, no, questo ti volevo chiedere: quanto, da quello che hai capito, dagli incontri che hai fatto, sì, quanto conta in questo momento in Albania un po' di moda italiana? Tu sei bravo, non ci sono dubbi, però insomma, il fatto che De Biasi abbia raggiunto un risultato storico, ma non raccomandati. Lui però ha fatto bene, quindi. Faccio un discorso più in generale sulla percezione del calcio italiano dopo l'impresa di De Biasi. Non c'è dubbio, Pier, non c'è dubbio. Devo dire che la persona che ha voluto me dentro questa società, abbastanza, anzi molto molto forte, ambiziosa, in Albania, è stato Dritan Desbili, praticamente quello che stavo dicendo prima, il direttore generale. Ovviamente avranno sentito, perché tu sai come succede nel nostro mondo, appena un allenatore si sente parlare di un allenatore, vanno a chiedere informazioni, e ovviamente chiedendo informazioni a chi mi possano conoscere meglio. Non so, Paolo Tramezzani è stato il mio giocatore, sì, per 2 anni, certo. Gianni De Biasi ci conosciamo da una vita, Iglitare, insomma, è una persona che io stimo, e lui stima me l'ha sempre dimostrato. Insomma, credo che almeno anche come informazioni siano state positive, ma sicuro Dritan, il direttore generale, è stato quello che mi ha voluto a tutti i costi, perché attenzione, c'erano veramente molti allenatori che volevano arrivare lì a Tirana, insomma, perché oggi è un calcio, diciamo, in ascesa, è una nazione, mi sembra, proprio in ascesa, no? Diciamo, sì, è ovvio, assolutamente, che... ma infatti io... Ma l'abbiamo imparato con De Biasi. Oltre a farti di bocca al lupo, immagino che ci sia la giusta eccitazione, perché è un'occasione di rilancio importantissima e meritata, mi permetto di aggiungere, al di là dell'amicizia, credo che sia assolutamente oggettivo. E poi perché insomma, comunque è un calcio in crescita, e poi comunque tutte le esperienze, a parte che è un'ora d'aereo dall'Italia, ma insomma, tutte le esperienze all'estero, secondo me... Chi le ha vissute a grandissimi livelli, a livelli un pochino più intermedi, però insomma, sono sempre delle avventure, e quindi io penso che sia una grande opportunità. Guarda, io ti dico una cosa, Pier, perché sai, in questi anni di Mediaset mi sono trovato talmente bene che ho tentennato, mi devi credere, ho tentennato già 2 anni fa, anzi ti dirò che lo posso dire adesso, 4 anni fa, l'FK Tirana, chissà perché sempre l'Albania, che era quella che ha vinto più scudetti, nel 2025, mi chiamò, io mi ricordo che ero proprio dentro gli studi e dovevo prendere l'aereo, e avevano mandato via un allenatore spagnolo e io non ci sono andato. Questo per l'attaccamento che ho veramente, che per me è diventata veramente la mia seconda famiglia, Mediaset, e l'ho sempre detto, Tanto noi veniamo anche dall'esperienza di Adani, che poteva andare a fare il vice di Mancini e alla fine ha preferito stare a Sky. Io credo una cosa, questo lavoro, questo vale per Mediaset, vale ovviamente anche per Sky, ci mancherebbe altro, e anche per la Rai, insomma per tutti quelli che fanno i commentatori, lo fanno molto bene e vivono una vita, credo, piacevole, no? Perché comunque è una vita di esperienze divertenti, facciamo il lavoro che ci piace di più, andiamo a vedere le partite, andiamo a commentare, quindi è una cosa sicuramente molto molto divertente, molto divertente e molto istruttiva anche dal punto di vista professionale. Però se uno poi dentro ha il sacro fuoco dell'allenare, io credo che torna in debba panchina, scegliere, quindi probabilmente Adani, lo salutiamo, gli facciamo gli auguri, lo vedo spesso a cena, insomma ha fatto una scelta che è stata una scelta perché si vede in prospettiva più uomo di televisione, commentatore, sì, e oggi che è un lavoro, allenatore. È un mestiere assolutamente come l'altro, però se hai il sacro fuoco vai e spacca tutto. Allora noi siamo partiti dalla Roma, poi ci torniamo anche 800 24 00 24, poi ci sono anche altri temi oggi che tocchiamo, parliamo di cosa è successo ieri in Inghilterra, parliamo del mercato, a volte ritornano con questi nomi che ciclicamente ogni tanto all'apertura della finestra ci ritroviamo. Oggi c'è stato un teatrino fra Mancini e Blanc su Lavezzi, che poi vi raccontiamo. 800 24 00 24, quindi prenotatevi anche se avete domande di mercato, 349 238 6666 per i vostri sms su WhatsApp. C'è già Enrico da Prato, lo facciamo, chiedo un minuto di pazienza ad Agostinelli perché poi con lui vorrei capire anche, insomma, proviamo a dare una lettura anche a quello che succede sulle panchine italiane. Noi partiamo da Garcia, ma oggi ad esempio il Corriere dello Sport scrive che metà Serie A a giugno cambia panchina, e a me sembra un dato clamoroso, tra l'altro in una stagione in cui tanti stanno facendo bene. Enrico. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione, molto bella. Grazie. E complimenti anche a Di Biase perché veramente ci rappresenta molto bene all'estero. Sì, e lo farà. Volevo anche Agostinelli, prego. Allora, io sono un tifoso del Prato perché sono un pratese e ho sempre tifato per il Prato. È una squadra di Serie C che voi sicuramente conoscerete, abbiamo dato in Italia a tantissimi giocatori famosi. Allora, il mio discorso è questo: bisognerebbe che il signor Garcia cominciasse un pochino a sorridere, perché egli è troppo serio. Questo è importante, perché l'immagine, prendete, io non sono per la Fiorentina, prendete Sousa, è uno spettacolo, è un piacere sentirlo. Ora, cosa c'entra questo con il gioco? È importante, perché sicuramente la piazza di Roma è molto delicata e molto particolare, e bisognerebbe che un pochino si sdrammatizzasse un po' la situazione, perché è chiaro che poi se non vengono risultati la gente non va allo stadio. Sì. Il risultato è quello. È brutto un'altra cosa, quello che se non ci sono risultati si prende l'allenatore e si vola subito. Sì. Prima, io mi ricordo tanti anni fa, è un allenatore, ci stava anche 3 o 4 anni. Sì, ma non sempre però subito, Enrico. Il caso di Garcia, ad esempio, è esattamente il contrario. Cioè è rimasto lì. Anche il caso di Mihajlovic. Anche il caso di Mihajlovic. Sono lì anche se non li vogliono più. Io sono d'accordo, cioè Mihajlovic non ha una classifica, secondo me, da licenziamento. Non ce l'aveva neanche Zenga una classifica da licenziamento, ma lì ho la sensazione che il feeling fosse poco. Ma io sono d'accordo con l'ascoltatore. Credo in qualche modo che il sorriso sia anche frutto dei risultati. Cioè Garcia, dei primi 6 mesi a Roma, sorrideva e come. Sì, c'è poco da ridere in questo momento. E poi sicuramente si è fatto un po' logorare da una serie di polemiche, la città non aiuta, però dico anche, la città Andrea la conosce benissimo, voglio sentire anche che ne pensa lui, è una piazza magnifica, ma ovviamente che ti mette molta pressione, ed è una piazza dove, storia alla mano, chi ha trionfato è stato sempre un guru. Capello, prima ancora Lidl. È molto difficile per un allenatore che perde questo tipo di credibilità, questo tipo di aurea da santone, da leader assoluto, è molto difficile a Roma riconquistarla. È un dato di fatto. Poi se vogliamo dirla tutta, questa Roma si è scontrata con una Juve probabilmente inavvicinabile. Vi devo fermare un momento, chiedo veramente un minuto di pazienza ad Andrea Agostinelli, abbiamo il traffico, però torniamo subito. Tutti convocati. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presento. Tutti convocati. Allora, ripartiamo da Garcia, 800 24 00 24, Agostinelli sulla piazza di Roma, su questa difficoltà, se non sei un guru, se hai perso un po' la fiducia dell'ambiente. Ha detto bene a Pierre, poi c'è una cosa da dire che qui succede molto spesso. Il primo anno chissà perché le cose vanno sempre bene o abbastanza bene a tutti. Il problema è del secondo anno, che mi dà tanto l'idea, ma per me è una certezza, perché praticamente si aspettano qualcosa di più e qualche volta non si può dare. Guardate voi anche Stefano Pioli, guardate un attimo Garcia, ma anche tanti allenatori, lo stesso Pektovic quando è arrivata alla Lazio, no? Il primo anno bene, il secondo anno molto male. Ranieri, allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente un po' le pressioni enormi spaccano un po' il cervello degli allenatori, perché basta guardarli nella faccia, come ha detto Pers, stava dicendo i primi sei mesi Garcia rideva benissimo, altro che non rideva. Anzi era anche molto ironico tante volte. E il problema è che Roma è una di quelle piazze che se non hai un pelo lungo, ma di quelli proprio lunghi, si fa fatica nel durare, ecco, diciamo nel durare, non nel fare magari un risultato immediato. Tutto qua. Sì, sul fatto invece che si arrivi poi a cambiare mille volte, abbiamo detto spesso non conviene, no. Non è convenuto a Palermo, non è convenuto alla Sampdoria, poi vediamo se Montella sarà capace di costruirsi una squadra come vuole lui. Al Bologna è convenuto. Forse non converrebbe neanche alla Roma, Ma lì io credo che la scelta sia più grande, cioè io ho la sensazione che difficilmente Garcia allenerà la Roma l'anno prossimo, a meno di un miracolo, che però deve passare da lui e dai risultati della squadra, quindi chiaro che poi se la squadra vince lo scudetto oppure vola in Champions League, ma sono due ipotesi non semplicissime, e allora a quel punto cambierebbe tutto. Ma se la stagione si dovesse chiudere in maniera abbastanza cupa, abbastanza malinconica, a quel punto io credo che la Roma cambierebbe, e penso che dietro l'atteggiamento prudente che hanno avuto fino a questo momento i dirigenti della Roma c'è la voglia di ripartire l'anno prossimo con un allenatore molto forte. Penso che sia questa l'idea. È chiaro che se l'allenatore del futuro è Spalletti, tanto vale prenderlo adesso e usare questi sei mesi di traghetto, se l'idea è Spalletti. Sì, o forse sei una figura forte come Conte. Mi viene in mente Mancini, è una figura forte nell'Inter, che ha una proprietà straniera lontana nel senso geografico del termine. Potrebbe servire alla Roma qualcosa di simile, visto che Pallotta sta a Boston e praticamente non viene mai a Roma. Qualcosa di simile come profilo, sì, potrebbe essere utile. Sì, io credo che uno dei problemi della Roma, forse il principale, sia quello di non avere, secondo me, una figura così carismatica, così autoritaria anche nel rapporto con i giocatori. È chiaro che Pallotta ha pienamente il diritto, adesso al di là delle polemiche con i tifosi, ha pienamente il diritto di vivere a Boston, di pensare ai Celtics e agli altri business della sua vita. Nessuno pretende che Pallotta si trasferisca a Roma, anche se gliela consiglio perché è una città fantastica. Però detto questo, ha tutto il diritto di fare quello che vuole, però deve delegare. E la mia sensazione è che Sabatini, che è un uomo fortissimo dal punto di vista del mercato, un grandissimo talent scout, però abbia un ruolo e un compito diverso. Quindi io penso che sia un po' questo il deal. Andrea, tema. Ma tu la consiglieresti Roma a Conte, visto che poi questi sono anche i giorni in cui è tornato d'attualità il tema Conte che lascia la nazionale, dove va? Da Conte, sì, perché quantomeno la Roma come investimenti mi sembra che li faccia, poi può sbagliare o non sbagliare, ma mi sembra che il denaro per fare una squadra competitiva lo tiri fuori. Ovviamente Antonio Conte in questo momento ha il coltello dalla parte del manico, può pretendere, credo che in questo momento possa essere anche una piazza per lui giusta, perché no? Molto stimolante. Io penso che Conte abbia, al di là dell'Inghilterra, che secondo me è il suo sogno, l'estero è il suo sogno, poi due grandi opzioni aperte in Italia, al di là del ritorno alla Juve, che non lo so, non è che mi faccia impazzire, perché mi sembra un po' una reminiscenza riscaldata, un po' come Spalletti con la Roma. Abbia il Milan e la Roma. Anche cioè, se i tifosi della Juve, credo di aver capito, lo rivorrebbero. Io non so se vogliamo aprire anche un referendum su Conte e il ritorno alla Juve. Nella carriera di Conte, dopo l'europeo, io vedo come soluzione migliore una grande esperienza all'estero, senza se, senza ma. E poi a quel punto può tornare alla Juve. Però non è che è un passo indietro, per carità, però il compito è anche più facile, perché la Juve comunque è la squadra che ha dominato negli ultimi anni, quindi sarebbe difficile riuscire a fare meglio di come ha fatto. E poi due sfide stimolanti che sono Milan e Roma, diverse ma entrambe molto stimolanti secondo me, quindi poi dipenderà anche da lui, da quello che vorrà. Però conoscendolo un po', insomma, mi sembra uomo da sfide, non mi sembra uomo da che torna sui suoi passi. Quindi secondo me Milan e Roma sono le due ipotesi più anche probabili, se sarebbe... anche se lui sicuramente sogna l'estero, che sarebbe anche poi per una bandiera della Juve una soluzione, diciamo, più semplice. Anche se credo sarebbe una sfida anche tornare alla Juve, perché proprio per il fatto che i ritorni non sono sfida, mai semplici, tutto è una sfida, ma anche però... conquistare la gente, i tifosi, non so come finirà che quest'anno, ma i tifosi della Juve hanno vinto tanto in questi anni, ecco, riuscire per come è Conte, per la famosa idea dell'io ti cambierò, andrò in nazionale e dimostrerò che la nazionale può ritagliarsi gli spazi diversi, che con più disciplina eccetera, io penso che sia più gasato da una scelta tipo Milan o Roma, qualcosa di diverso. Salutiamo mister Agostinelli, grazie Andrea, ciao, ciao, bocca al lupo, auguri, buon anno, quando vai? Un abbraccio grosso, vado lunedì, scusa, domenica sera, lunedì c'è la presentazione, perfetto, bocca al lupo, quindi seguiremo da lontano anche l'avventura di Andrea Agostinelli. 800 24 00 24, ci sono Mauro dalla provincia di Udine, Marco dalla provincia di Pisa. Mi fate sentire però Sacchi su Sarri a proposito degli allenatori, perché secondo me Sarri fin qui merita la statuetta dell'Oscar. Napoli di Sarri, Sarri sta facendo un grande lavoro con una rosa limitata, che è impegnata su tanti fronti, ma purtroppo finché non cresce la conoscenza succede che tu stai facendo un capolavoro e ti chiedono no, di più, è come se un capolavoro allora può vincere? Io dico, è difficile prevedere il futuro. Può vincere, non lo so, però Sarri che va così bene è anche un atto d'accusa verso gli altri, perché la Roma non è più scarsa del Napoli, sì, a livello di rosa. Secondo me è un atto d'accusa soprattutto nei confronti del Milan, nel senso che poi è chiaro che col senno di poi è facile, no? Quindi bisognava fare un sondaggio quest'estate e vedere quanti votavano per Mihajlovic e quanti votavano per Sarri. Allora a quel punto parlare dopo è molto semplice. Detto questo, Sarri è chiaro che poteva andare al Milan, lo sappiamo tutti. Anzi, visto che chi parla è Sacchi, sappiamo benissimo doveva che andare al Milan. Ecco, Sacchi è l'uomo che aveva consigliato Sarri al Milan. Il Milan non l'ha preso. Non l'ha preso per dei motivi anche comprensibili, non dico che siano sbagliati, di physique du rôle, che al di là di tante chiacchiere significa che magari ci poteva essere un po' di dubbio su un allenatore che non aveva mai allenato una grande squadra e che anzi era stato sempre lontanissimo dalle grandi squadre, perché Mihajlovic pure non aveva allenato una grande squadra come primo allenatore, però insomma ha vissuto anni da calciatore di un certo tipo, è stato il secondo di Mancini, ha vissuto comunque delle esperienze più profonde in Serie A, in club come il Catania, come la Samp, insomma, come il Bologna, quindi diciamo come la Fiorentina, aveva comunque un pedigree diverso rispetto a quello di Sarri, quindi è stata fatta una scelta e sicuramente fino a questo momento quella di Sarri è stata una scelta che ci dimostra poi come nella vita tante volte alcune etichette siano sbagliate. Semplicemente le assegniamo così perché dobbiamo dire qualcosa, ma sono boiate mostruose. Ma poi noi possiamo anche assegnare l'Oscar della panchina di questa prima metà di stagione a Sarri, anche se scrive un amico, l'Inter è prima e voi e tu dici che Sarri merita l'Oscar. Sì, Sarri merita l'Oscar perché Napoli è quello che ci ha fatto vedere insieme alla Fiorentina qualcosa di più bello, ma questo sì. È il mio pensiero, se ne avete un altro 800 no, Mancini merita il premio della critica, ma no, è oggettivo. Il premio è uno io lo do a Sarri, altrimenti facciamo la moltiplicazione dei premi, sì, per far contenti tutti. No, lo do anch'io a Sarri o Paolo Sosa, Sarri, dai. Daniele da Sassuolo scrive Mourinho alla Roma, no, è una suggestione, io non so neanche se davvero c'è stata quella cena, ma insomma Mourinho credo che non ci andrebbe, credo che siano proprio budget diversi, sia dal punto di vista del budget per gli acquisti che dal punto di vista dei soldi all'ingaggio. Ma non solo la Roma, ma certo, vale per il calcio italiano. Mauro dalla provincia di Udine, Mauro. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi convocato. Grazie a te. Dici. Niente, volevo parlare di questa Fiorentina. Sì, che sì. Quest'anno ci sta facendo, insomma, sorridere, dai. Beh sì, sicuramente, no, la Fiorentina, appunto, io nel dare il premio, diciamo, a Sarri, do il sottopremio, do la medaglia d'argento, la do a Paolo Sosa. Paolo Sosa ha fatto, sì, c'è anche cose. Chi sottolinea Giampaolo, che ha perso mezza squadra. Giampaolo sta facendo cose grandiose, viene da una serie di annate molto difficili, sono strafelice per lui, perché lo conosco abbastanza bene, so anche che dietro alla al suo nuovo corso c'è l'aiuto di un coach mentale che però vuole rimanere anonimo, adesso vi ho incuriosito, insomma, che ha un motivatore dell'allenatore, ma no, adesso senza esagerare, però insomma credo che si sia veramente ritrovato sotto ogni punto di vista. Questo allenatore mi fa enormemente piacere perché è uno che ha sempre giocato un buon calcio, poi ha faticato, poi ha avuto una fase di involuzione Giampaolo negli ultimi anni, non ne ha combinata bene una, non solo per colpa sua fra l'altro, e poi invece quest'anno sta facendo cose meravigliose, gli auguro ovviamente di continuare così, e questo potrebbe essere un trampolino esattamente come per Sarri, quindi sono d'accordo con l'ascoltatore. Sulla Fiorentina, la Fiorentina gioca benissimo, ha trovato un grande attaccante, il paradosso è stato che in un anno in cui sembrava una campagna acquisti in tono minore quasi per recuperare soldi, invece la Fiorentina ha fatto il capolavoro, ha preso Kalinic, ha una squadra che gioca molto più verticale rispetto agli anni scorsi e quindi assolutamente tutto il bene possibile. Io non credo, lo dico senza che a Firenze ci si offenda, non credo che sia la squadra più attrezzata per poter durare per 38 partite, però intanto è durata per 17. Se stiamo discutendo del Napoli, se sia attrezzata a livello di profondità di rosa per arrivare in fondo, a maggior ragione si può discutere della Fiorentina. Secondo me il Napoli ha qualcosa in più come profondità di rosa rispetto alla Fiorentina. Poi c'è un amico che chiede da 1 a 10 quanta meritocrazia c'è nell'inizio di carriera di un allenatore. Secondo me è poco. Nell'inizio di carriera, e lo testimonia anche qualche inizio di carriera degli ultimi anni dove c'è stata questa moda. Chiedo un minuto di pazienza a Marco dalla provincia di Pisa, però visto che in tanti state scrivendo, fateci il vostro podio degli allenatori di questa prima Conte parte Milan della Guidolina stagione. Conte al Milan e Guidolina alla Nazionale, Guidolina no? Nazionale era la famosa eredità vecchia prima di cambiare del corso e anche prima che si liberasse Conte, perché poi ieri se ne parlava con Franco Ordine, sicuramente da vecchio a cambiare idea rispetto ai primi giorni in cui sembrava pensare ai primi giorni della sua campagna elettorale, in cui fra battutacce e invece programmi seri aveva fatto capire che voleva una scelta di un allenatore diciamo più di medio profilo, non di un top. Poi però è successo da un lato che lui ha fatto quella gaffa e secondo me la strada è andata poi in salita, dall'altra che Conte si è liberato rimontare. E ha dato una disponibilità. Sì, poi vediamo, perché credo che ben presto noi sapremo cosa farà Conte. Comunque ci fermiamo, c'è la borsa 800240024. Io sul podio continuo a mettere Sarri, però quando torniamo parliamo anche di mercato. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Sconto forte subito con una spesa di almeno 250 euro hai subito uno sconto di 25 euro, con una di almeno 500 ne hai 100 e con una da 1000 ben 250 euro anche online. Promozione valida fino al 31 dicembre. Dettagli, esclusioni e punti vendita aderenti su unieuro.it. Solo da Unieuro. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Ehi amico! Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Evviva! Vai su agenti.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! Tutti convocati. Oh, abbiamo scatenato la ricerca del podio. C'è chi scrive: se Sarri andava al scatenati, Milan adesso sarebbe lui nei guai. Hanno fatto gli ultimi tre allenatori al Milan. Può essere. Sarri insomma oggi sarebbe più in difficoltà. C'è un milanista che dice: non capisco perché dovremmo rimpiangere Sarri noi milanisti per avere 7 punticini in più, noi siamo lì. Andrea da Venezia, insomma il Milan ha perso il treno, ne ha davanti troppo. Sì, però sì, può succedere qualsiasi può cosa. Può succedere, secondo me, non va dimenticato che lo scorso anno a gennaio il Milan andò malissimo. Cioè, il Milan ha essenzialmente gli stessi punti dell'anno scorso, però è vero che a gennaio 2015 crollò. E quindi c'è la possibilità concreta che possa far meglio di un anno fa. Io credo che il Milan migliorerà, un pochino migliorerà, però credo che abbia perso un po' troppi punti, non abbia il passo per poter lottare per lo scudetto. Cioè credo che sia un passo dietro alle prime due, alle prime tre. Allora, il vostro podio degli allenatori: Stefano da Udine, primo Sarri, secondo Giampaolo, terzo Di Francesco per i risultati ottenuti con i giocatori a disposizione. E poi c'è chi propone per Ranieri l'Oscar europeo. Poi stasera tifiamo tutti per Ranieri contro il Manchester City. Sousa, Sarri, Giampaolo, Lori da Milano, insomma, scriveteci 349-238-6666 oppure 800-24-0024 come Marco dalla provincia di Pisa. Marco, Ciao, buone feste a tutti e ciao. Complimenti. Niente, no, volevo dire, dato il podio, visto che c'è, mi ci tiro dentro anch'io, io sono appassionato di tifoso della Fiorentina, sì che metto Paolo Sousa al primo posto, quasi a pari merito Sarri, perché ne parla, noi toscani lo conosciamo bene, ha sempre vinto anche nelle categorie bassissime, lui è partito proprio dalla gavetta, è un grande personaggio. E poi diciamo anch'io di Francesco, perché sta facendo bene, si conferma negli anni, se il suolo gioca bene. Secondo me sono questi primi tre, perché l'Inter, Mancini è un grande manager, ma secondo me come tipo di gioco è bravo e stanno anche i risultati, però l'Inter non ha mai giocato sì, bene quest'anno. Anche se poi costruire qualcosa quasi da zero, perché Mancini ha cambiato praticamente tutti i titolari, è anche questo motivo di merito, poi essere primi in classifica. Però prego Marco. Sì. No, poi volevo dire due cose velocissime. Una sulla Roma, che non capisco, me lo dovete dire voi, come mai, visto l'Inter, visto il Napoli, visto anche la Juventus, che partono sempre dal fondamento, cioè rinforzando, quest'anno l'Inter l'ha dimostrato con Miranda e Mourinho, la Juventus è 5 anni che ha le coppie più forti di centrali tra il trio, e Napoli ha sistemato la difesa, anche la Fiorentina non cambiando nessuno, non subisce meno gol, perché la Roma si ostina tutti gli anni, quello non so se è di merito di Garzia o di Sabatini, nel cambiare i centrali, cioè non dà proprio un senso di dove, perché poi gol li fa la Roma, peccato, però credo dovresti dare un'occhiata ai conti, per spiegarselo. Però è vera secondo me la sostanza, no, del ragionamento del nostro ascoltatore, cioè la Roma ha fatto troppo mercato, ha fatto anche delle genialate, perché appunto Sabatini è stato un talent scout straordinario, ha trovato dei giocatori, penso al caso di Marquinhos, lo stesso Lamela che è stato venduto benissimo, Benatia comprata a 11 e venduta a più di 30, è ovvio che c'è stato una bella plusvalenza, però è vero pure che c'è stato tanto mercato, cioè che certi giocatori insomma forse andavano tenuti, andavano considerati, bisognava ragionare più da grandissima squadra, che quelli buoni si ritiene, che quelli buoni li considera incedibili, però se è stato fatto essenzialmente è per esigenze di palanche, come dico la Genova, no? È perché in questo lavoro Sabatini è probabilmente il migliore. Qualche altro podio degli allenatori, c'è chi mette Allegri primo, poi indeciso fra Sarri e Sousa come inaspettati, c'è chi sottolinea ed è Gianni da Treviso, Donadoni terzo, è uno degli allenatori più sottovalutati, vedere anche il Parma dell'anno scorso. C'è un amico che scrive su WhatsApp e mette primo Oddo col Pescara. Oddo sta facendo una bene, grande stagione, sai, appunto, calcio è liquido, no? Lo sappiamo fino proprio alla noia, e quindi certo Oddo sta facendo molto bene. Poi adesso è difficile paragonare imprese diverse in campionati diversi, su questo non ci sono grandi dubbi. 800 24 00 24, perché mi sto ingarellando qui col numero delle telefonate che arrivano, quindi voglio vedere questo numero che sale. 800 24 00 24. Parliamo un po' di mercato. A volte ritorna. Forze di un mondo misterioso e nascosto si scatenano in un incubo spaventoso e senza fine. Nella mia carriera non sono mai stato uno che va sulle riviste, fa pubblicità, non sono il tipo da copertina, quindi sono venuto in America non per fare il turista, non per fare pubblicitario, ma per giocare a calcio, che è la cosa più importante per me e la cosa che riesco meglio. A volte ritorna. Sono venuto per restare qua. Sono venuto per restare in Italia, non l'avevo detto, adesso ti do la conferma a te. Veramente? Sì. Su che sponda? Non ti posso dire ancora, però sono venuto per rimanere qua. Questa è una notizia meravigliosa, per il calcio italiano siamo veramente contenti, però la risata, non so, mi fa dubitare che forse mi stai prendendo in giro. A volte ritorna. Ora il momento è arrivato. Sì, ci ho provo un pochito. No, sono molto felice perché Siviglia è un equipo molto importante. Prima parlavo con Monchi e lui ha detto è come una famiglia, e per me questo è molto importante. Dopo un anno passato in maniera negativa, per me è importante questo anno entrare a far parte di questa famiglia e sono molto felice. una grande emozione, sono veramente molto, molto contento e molto emozionato. Ringrazio il presidente e tutto Monaco per questa opportunità, ma sicuramente è una grande società che io ho anche seguito. L'attimo agghiacciante in cui il tempo si trasforma in destino. A volte ritornano e non conoscono pietà. In linea di massima non conoscono neanche lo spagnolo, allora test chi erano? Allora, lo spagnolo Immobile, insomma. Il tentativo di spagnolo era quello di Ciro Immobile. Poi c'era un Pirlo? C'era un Pirlo che però parlava in italiano, in bresciano, anzi. A proposito, c'è un amico che scrive come allenatore top Boscaglia di Brescia, Paolo da Brescia, a proposito di chi sta facendo bene. Poi c'era, credo, il Sharawi, c'era Lavezzi, c'era che, insomma, io questa mattina leggendo i giornali, sfogliandoli, mi è sembrato di leggere anche i giornali di qualche mese fa, perché siamo sempre lì, ogni volta che si apre una finestra di mercato, poi i nomi che girano spesso sono gli stessi. Saluto Mario Giunta da Sky, ciao Mario. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Come va? Ciao Pier, buon pomeriggio, come va? Noi ci siamo beccati meravigliosa, ci siamo beccati a cena il 22, credo, il 23, e tu mi hai detto, no, il 22, tu mi hai detto il 24 vado a Salerno a fare Salernitana-Cagliari. Io ho detto, beh, bella partita, vedrai, sarà tranquilla, piacevole, non succederà nulla, non ci sarà nessun caso. Ce lo racconti? Ricordiamo la vicenda, anzi ricordala tu, la vicenda di Salernitana-Cagliari. Ma guarda, è molto, molto semplice quello che è successo, nel senso che comunque Teio, attaccante del colombiano del Cagliari. Del Cagliari, dopo aver fatto il gol del 2-0, ha avuto, diciamo, esultato in maniera abbastanza normale, secondo me, nel senso, sai, poi in maniera un po' sudamericana, roba non offensiva, dai. Un balletto, ecco, un balletto assolutamente non offensivo. Ha avuto la sfortuna in quel momento di farlo, probabilmente l'ha fatto in buonissima fede perché stava esultando, di farlo sotto la curva dei tifosi della Salernitana, che non l'hanno presa benissimo. Rivedendo, stando lì e poi rivedendo anche le immagini, tutto dopo quello che è successo è qualcosa veramente di brutto, perché è partita una caccia all'uomo incredibile, con praticamente tutte e due le panchine. Ma noi non abbiamo ancora capito perché sia stato espulso primo e perché sia stato poi squalificato, no? Quello rimane anche per me un mistero. Io ti posso raccontare che a un certo punto Teio era praticamente sotto la panchina del Cagliari. Poverino mi guardava come per dire, ma che ho fatto io, che ho fatto? E non sapevo che risposta darle in quel momento al povero Teio, che era molto molto spaventato. E lì c'è stato un concatenarsi di situazioni spiacevoli, secondo me ha sbagliato anche l'assistente ad interferire nelle esultanze dei giocatori del Cagliari, a dire a Teio di non fare quel gesto, di portarlo e di tornare verso il centrocampo. E lì è stata un po' la missa che ha scatenato tutto. Adesso parliamo di mercato, però se posso aggiungere una cosa, c'è una cosa secondo me sottile, un po' come le polveri sottili che ci impediscono di prendere le macchine in questi giorni, che di tutta questa vicenda, cioè andare, premesso che un'esultanza offensiva andrebbe punita, non ci sono dubbi, ma se l'esultanza non è offensiva, questo tipo di atteggiamento da parte dell'assistente che per quieto vivere gli dice fai il bravo, non esulta, cioè porta secondo me a una sterilizzazione di tutto che è tristissima. Cioè tante volte ci lamentiamo, io sono fra quelli che per esempio non condivide l'idea dei giocatori che non esultano per rispetto, perché da poi ognuno fa quello che gli pare nella vita, però non c'è niente di più bello del momento del gol. Insomma, un tifoso di una squadra vuole che il giocatore si impegni e che poi se due anni dopo va a giocare nella squadra rivale si impegni per l'altra squadra. Ma poi se non fai squadra, gesti volgari puoi anche esultare sotto la curva della squadra avversaria, non è che per forza devi prendere, girare, fare il giro del campo magari prendendoti un cartellino giallo a quel punto, cioè, ma è una cosa assurda. Comunque ci dici perché ritornano, se ritornano, ad esempio in queste ore sta girando forte la voce di Immobile al Toro, poi c'è il Sharawi, addirittura oggi la stampa scrive che potrebbe interessare alla Juve, o anche meglio anche Borriello al Toro. Ho letto male? No, avete letto tutto tutto bene. Alla quinta elementare ci siamo arrivati. Sì, no, il problema è che insomma Immobile in questo momento ha tantissima voglia di giocare, forse per lui si troverebbe una sistemazione in Italia per giocarsi poi le sue opportunità di Euro 2016, di andare a Euro 2016 e convincere Conte. Non è facile, cioè secondo me il suo sogno è andare a giocare nel Napoli, ma a Napoli va a Napoli e che fa? guarda Higuain fare gol in ogni modo, in ogni maniera, quindi credo che sia una pista molto molto complicata. Potrebbe finire in qualche squadra che in questo momento, come ho detto poco fa, insomma, secondo me non ha un vero e proprio attaccante, un attaccante di ruolo. Mi viene in mente l'Udinese, anche se ha Zapata che rientrerà dall'infortunio, la stessa Sampdoria, che comunque sì, ha Muriel, ha Eder che segna, però gli manca un attaccante molto probabilmente come Ciro Immobile. Il Siviglia in queste ore sta valutando che cosa fare con lui, parlerà direttamente anche con il giocatore e cercherà di trovargli una sistemazione, perché lui, ripeto, insomma, lui non dico che si sia stancato di andare in giro per l'Europa nell'ultimo anno e mezzo e fare panchina, giocare qualche spezzone di partita. Diciamo che il grande salto golletto l'ha mancato Immobile, sì, cioè mancato, è andato sì via dall'Italia con altre aspettative. Di personalità e di maturità lui in questa esperienza all'estero. Però ha fallito il grande salto. Dortmund era un'occasione importante. Sì, un altro che ha fallito, sta fallendo, è il Sharawi, e i numeri sono lì a testimoniarlo. A Dortmund è andato meglio che a Siviglia ad oggi, perché Dortmund non è andato benissimo, lui si è trovato male, però insomma, se guardiamo, adesso vado su Wiki, perché non mi ricordo esattamente i gol che ha segnato a memoria, però insomma non ha avuto un bottino così drammatico. Quest'anno mi sembra stia faticando veramente tanto. E invece su El Sharawi, oggi ripeto la stampa, Massimiliano Nerozzi, che sempre informatissimo su queste cose, scrive che insomma, ci sarebbero dei contatti per portarlo, da parte anche dell'entourage del giocatore, per portarlo alla Juventus, che sarebbe uno scenario credo clamoroso, Mario? Sì, quello sì, non mi risulta una Juventus così calda nei confronti di El Sharawi in questo momento. Qualche giorno fa, da quello che avevamo scoperto, c'era più una soluzione Lazio che potrebbe essere la più plausibile per il Sharawi, anche perché al Monaco ad esempio interessa un giocatore della Lazio che è Keita. Anche lui, tra mille alti e bassi, non è mai riuscito a imporsi, nonostante abbia secondo me un potenziale stratosferico Keita come giocatore, e ci ha provato il Monaco, ma la Lazio ha sempre risposto in maniera molto molto molto molto fredda. Chissà che non possa nascere un'ipotesi di mercato, uno scambio che tra il Sharawi, che farebbe felice tutti e due. Meglio anche per Conte, perché onestamente se il Sharawi va alla Juve credo che difficilmente trova lo spazio per potersi prendere la nazionale. Ma molti giocatori fanno questo ragionamento. Mario, ti devo chiedere un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi parliamo del teatrino tra Mancini e Blanc sulla Vezzi. Bene, molto bene, il trap apprezza, lo sentite? Tutti convocati. Convocati. C'è un amico che dice: ho 200 milioni da parte, è stato beato lui, risparmiati dai regali di Natale, mi compro Messi o Neymar. Sì. Ma forse con 200 uno dei due, Sì, uno dei due, però t'avanza qualcosa, dai. Sì, ma poco, c'è l'ingaggio, c'è l'ingaggio, attenzione. 200 va bene per l'ingaggio. 10 gol Immobile a Dortmund l'anno scorso, 3 fino a questo momento a Siviglia, quello per completare il discorso. Torrente, Nicola Tesser, ci dice Orlando d'Avellino come podio. 800240024, vi ricordo, stiamo volando. 800240024. Dobbiamo battere il record. No, c'è un amico, un estimatore credo di Immobile, che scrive: chi è quel cretino che si prende Immobile? Ma secondo me invece Immobile nel campionato italiano, già oggi in una squadra di seconda fascia, diciamo in una squadra di media classifica, potrebbe fare la differenza. Dove può giocare fisso e quindi essere quello che è stato a Torino, un giocatore straordinario. Poi lì secondo me c'è anche un effetto Ventura, c'è anche la magia di quella stagione di 2 anni fa con la partnership con Cerci che ha funzionato, quindi da questo punto di vista c'è anche questo elemento. Allora Siparietto oggi in conferenza stampa a Doha, chiedono a Mancini di Lavezzi se parlerà con Blanc del possibile arrivo di Lavezzi a Milano. Lui dice sì, ne parlerò dopo la conferenza, e Blanc è seduto a fianco perché erano tutti e due al tavolo, risponde: ah, io sono pronto. Ora, al di là che probabilmente prendevano in giro tutti, Mario Giunta, c'è qualcosa di concreto dietro questa cosa, o Lavezzi è una di quelle tasse che ci dobbiamo prendere tutte le volte che si apre il mercato? C'è qualcosina di vero, e secondo me qualcosina di tassa da pagare c'è sempre. Cioè, la tassa Lavezzi c'è, perché ormai ci sono tasse peggiori, finché non si muoverà dal Paris Saint-Germain ogni sessione di mercato uscirà fuori il nome di Lavezzi, ci mancherebbe, specialmente accostato alle squadre, accostato alle squadre italiane. Io credo, insomma, che però qualcosina di vero ci sia, nel senso che Mancini stravede per lui, sarebbe un acquisto dal punto di vista tecnico, non dico perfetto, ma quasi per l'idea di Mancini, per come vuole mettere anche la squadra in campo. Poi io credo che dall'altra parte Blanc abbia un po' bluffato, perché poi se si dovessero sedere al tavolo Blanc e Mancini e poi chiamare le due dirigenze, verrebbe fuori il discorso economico, sì, per ovviamente non fa sconti a nessuno, nemmeno lo sceicco, tantomeno Lavezzi, col suo procuratore. Lo sceicco è tanto bravo ad acquistare, perché ha tanti soldi, però poi quando deve vendere i soldi li vuole tutti, dal primo all'ultimo centesimo di euro, giustamente, e non fa sconti. Quindi io l'unica difficoltà sarebbe, come sempre, l'aspetto economico. Gli devi pagare l'ingaggio, gli devi pagare comunque al Paris Saint Germain qualcosina, vuole nelle sue tasche, è normale. Quindi c'è un pochettino di verità, c'è, sì. come ma no, non fosse per altro che va in scadenza, quindi insomma prima o poi anche lui dovrà piazzarsi, ma quello è poco ma sicuro. Ma la situazione economica dell'Inter, perché insomma, l'Inter ha fatto degli investimenti, però ha fatto una grande scommessa, se non sbaglio, no? In questo è stato bravissimo Mancini, che è riuscito a far digerire tutta una serie di acquisti, alcuni dei quali con obbligo di riscatto, sì, altri con invece diritto di riscatto. Insomma, com'è la situazione economica per il discorso del fair play finanziario? Dobbiamo aspettarci un Inter protagonista sul mercato di gennaio, oppure una squadra che inevitabilmente dovrà fare un pochino più di cassa e di conti oculati? Il discorso economico dell'Inter è un discorso molto chiaro, che incide ovviamente anche sul mercato. Toir, secondo me, in questo momento, dopo gli sforzi che ha fatto in estate, dove ha accontentato Roberto Mancini in tutto e per tutto, Mancini in una famosa intervista disse: voglio 10 giocatori, mi sono arrivati 11, se non sbaglio, nella sessione di mercato estiva dell'Inter. Adesso ci sarà qualcosina sicuramente nel mercato di gennaio, questo è poco ma sicuro, perché con un allenatore come Mancini è ovvio che ci sono delle richieste, la società farà tutto per accontentarle, però il grande sforzo è stato prodotto in estate, quello di fare un po' di cassa prima per rientrare anche dagli investimenti fatti. Poi il problema è venderli, perché quest'estate, come ci raccontava Fassone, ad esempio all'esterno, in più l'Inter non è riuscito a venderlo, non è un tema che non voleva venderlo. No, esatto, però infatti tenterà di venderlo in questa sessione di gennaio. Già se l'Inter riuscisse a liberarsi di Ranocchia, che potrebbe andare al Bologna, dell'ingaggio pesantissimo, non dico folle, ma comunque pesante, di Bilic, e vendere uno tra Dodò, Nagatomo, Santon, questi giocatori. Sì, avrebbe dei margini di manovra. Avrebbe dei margini sicuramente non ci sono di manovra, forse non per andare a prendere e far partire l'assalto di Lavezzi, a meno che non ci sia un intervento economico importante della proprietà, cioè di Toir, ma comunque di dare a Mancini delle alternative valide sul mercato. Questo è poco ma sicuro. È una situazione comunque abbastanza chiara, mi sembra. Sì, poi c'è anche da discutere se sia una priorità Lavezzi o magari a quel punto lavorare sugli esterni in difesa, però evidentemente Mancini avrà le idee chiare. Grazie Mario. Grazie a voi, un abbraccio, ciao, a tutti. Auguri. Ciao. Grazie a Mario Giunta. Candidatura per il podio degli allenatori. C'è chi dice Mihajlovic, perché con una squadra così, con Montolivo in regia, una squadra triste, il sesto posto è un miracolo. Poi c'è chi ci segnala il gioco del Foggia di De Zerbi. C'è chi ci dice: se prendiamo in considerazione l'anno solare, meritano Castori e Stellone, che hanno portato il Carpi e il Frosinone in Serie A. Ci dicono anche che il prezzo del petrolio è crollato rispetto ai bei tempi e resterà basso ancora per parecchio tempo. Pensate che Altani e Co non ci abbiano pensato. Qui vedi che comunque Radio 24, sì, tutto si mescola. C'è un certo livello. Insomma, è il signor Belinazzo in incognito che ci manda da quel 328. Lorenzo, non è che Immobile Luca, funziona solo in piazze medie normali. Appena alza la testa va in crisi. Questo lo vogliono a Carpi. Ce l'ho scritto a dite a Immobile che a Carpi lo accogliamo a braccia aperte. In coppia con Borriello sarebbe una grande coppia. 800240024, chi c'è? Lorenzo da Lucca. Sì, buonasera. Eccoci. A tutti e buon anno a voi e a tutti i radioascoltatori. Grazie. Niente, io ritornavo sul discorso di Garcia prima. Io credo che Garcia, tra cui io ho molta simpatia perché come me è francese, per dire, però gli manchi la mentalità juventina. È brutto dirlo, però io credo che a Roma manchi la mentalità juventina, cioè quello del vincere, cioè quello di, non so, ecco, non è, è godereccia Roma, sì. Capito? È difficile, ma è anche meno abituata, in parte credo sia così. Però guardi che c'ha una rosa che secondo me non è inferiore a nessuno in Serie A. Guardi Paolo Sosa a Firenze, sta facendo benissimo, ma perché? Perché ha esportato una mentalità vincente, cioè si deve vincere. Sì, poi vediamo dove siamo in fondo, perché in fondo la Roma è lì, è a 3 punti credo dalla Fiorentina. Certo, però quanti anni è che la Roma fa delle signore squadre e poi dopo tutte le volte arriviamo lì e ci mangiamo le mani, cioè noi siamo stanchi, io ho 53 anni, ho vinto 2 scudetti. Quanto, cioè, voglio dire, mi faranno morire, io muoio a 100 anni perché chiaramente quindi hai tempo, muoio Lorenzo, a 100 anni per dire, però quanti scudi, cioè, voglio dire, Roma è la capitale, allora, adesso, tutte le capitali tu... d'Europa sono vincenti, capito? Cioè, dobbiamo anche noi cambiare la mentalità e pertanto mi dispiace dirlo e concludo, Conte lo vedrei benissimo, per quello le prenderebbe un po' anche a calci nel sedere certi personaggi, capito? Sì. Conte sono d'accordo, Conte è l'allenatore ideale per la Roma, è l'allenatore ideale per la Roma, bisogna vedere se ha voglia di fare una scommessa certamente ad alto rischio, non ci sono dubbi, però molto stimolante, insomma, io ripeto, un po' lo conosco, credo sia uomo che vuole grandi sfide, grande adrenalina. E Roma o anche Milan, per carità, anche il Milan, perché da tanti anni non vince, insomma, sono due sfide interessanti. Dicevi Lorenzo? Credo sia caduto Andrea da Brescia. Andrea, buongiorno. Considerazioni. Parto da Salerno, sì. Perché è stato un episodio bruttissimo ed è sarebbe necessaria una squalifica che dato il proprietario non arriverà, ma assolutamente, ovviamente una vera squalifica del campo, ma di quelle. Sì, ma anche se in realtà qui hanno fatto tutto i giocatori, adesso poi per carità, però, possiamo squalificare il campo, facciamo quello che vogliamo, è stata una roba brutta, ma credo che qui i tifosi c'entrino in maniera tangenziale, non so Pier, cioè, sì. non mi ricordo di aver visto... Francamente mi sembra, adesso la Salernitana la seguo meno, mi sembra che la Lazio non abbia avuto chissà quali favori arbitri, cioè, quindi questa cosa è dire che Lotito, insomma, io questo vento non lo vedo, sinceramente, non lo vedo proprio, non mi pare che la Lazio sia stata aiutata dagli arbitri. Andrea, in maniera l'altra riflessione. L'altra due, hanno aumentato il podio degli allenatori. Vai. Donadoni è il numero uno. Io da juventino non capisco perché Donadoni aveva tutto, aveva tutto per essere uno per il Milan, cioè aveva il blasone, essere una persona del Milan, del grande Milan di Sacchi, cioè dico Donadoni, Sarri, Allegri. Il mio podio e la terza cosa, la considerazione di Coda, un po' legata al discorso curve e tifosi, il signor Pallotta è molto inviso a Roma perché ha avuto il coraggio di dire che alcuni erano dei fucking idiots. Io ti applaudo a scena aperta, sì, Andrea. Sì, questo quello è stata chiaramente lì. È tutto lì. Beh, i problemi della squadra non c'entrano nulla, perché a Roma comunque poi si può discutere, ma non per fare 10.000 paganti, 6.000 paganti, di che stiamo parlando, Pier? Però, cioè, scusami, allora la battuta, quanti dovrebbero essere questi fucking idiots? Nel senso che il problema a me va bene, ma tutto. Tu sai come funziona dentro una curva e sai che poi c'è un nucleo che condiziona. E invece in tribuna la gente non ci va per solidarietà alle curve, e allora vuol dire, insomma, io francamente pensare che la curva, dare tutto questo potere alla curva sud di svuotare un intero stadio, mi sembra, o la curva nord nel caso della Lazio, mi sembra francamente non aderente alla realtà. Sono però contestazioni ambientali che prescindono da, sì, ambientali, da ma come tu non hai una Tevere piena, una Montemario piena e poi la curva vuota, tu hai poco pubblico in generale, hai i fischi di Roma Abate, hai tutta una serie di situazioni che secondo me sono legate alla squadra. Poi in questa situazione di malessere, giusto o sbagliata che sia, si innesta il problema prefetto, questore, Pallotta, fucking idiots, striscioni, curva chiusa, o meglio curva divisa, che è un tema se vuoi più tecnico che riguarda Credo le persone che della curva. Non andremo mai d'accordo, però aspetta, no, ma c'è il GR, sì. Abbiamo tempo di continuare. Poi tu a parlare dopo, perché uno in Tevere non dovrebbe, perché la Tevere si svuota perché per si crea una condizione. Aspetta, c'è Mario dalla provincia di Bari, lo richiamiamo subito dopo il GR delle 15, 800 24 00 24. Ma a livello, grazie, arrivederci a tutti, grazie. Ma che fretta! Ciao Roberto. Deve scappare. tutti convocati. Tutti convocati. Allora, ti leggo due messaggi che sono arrivati su WhatsApp. Vai. A proposito del tema curva della Roma. La prima: è sempre colpa dei tifosi per i giornalisti ben pensanti che si sono fatti una realtà preconfezionata. Grazie Pardo, voce fuori dal coro. L'altro: il signor Pardo va radiato dall'ordine dei giornalisti, è un difensore di teppisti delinquenti delle curve romane. Oh, mettiamoci d'accordo, amici. In 30 secondi. Io non sono ben pensante. No, io, e tu io, non io difendi non sono, dei, non delinquenti difendo teppisti. Io credo, anzi, che chiunque si trovi a delinquere in qualsiasi luogo d'Italia, d'Europa o del mondo debba pagare. Quindi, secondo me, se uno fa delle cose che sono illegali all'interno di uno stadio, deve essere punito, e anche in maniera seria, secondo quelli che sono i codici e le leggi, che non sono io a fare. Esattamente come se succede a Piazza del Popolo o a Piazza Venezia. Quindi, da questo punto di vista, non c'è nessuna forma di impunità. Però la responsabilità è personale. Cioè, è personale. Non puoi colpire un'intera, per esempio un intero settore, perché quattro cretini mettono uno striscione. Vai e devi riuscire a prendere quei... è difficile, benissimo, è difficile, devi essere più bravo e devi riuscire a beccarli, però con un lavoro di intelligence. Però, hanno fatto così in Inghilterra, alla fine hanno buttato fuori tutti. No, e in Inghilterra hanno cambiato completamente, in Inghilterra hanno fatto l'esatto contrario. In Inghilterra hanno colpito le persone, hanno colpito gli hooligan dal punto di vista personale. Beh, in Inghilterra hanno cominciato a dire che non ci sono più le curve, non si sta più in piedi, al pugno di ferro. Però sulle persone, su chi andava a delinquere, della Thatcher in quegli anni, hanno cambiato negli anni poi delle squalifiche, soprattutto dopo Hillsborough, hanno cambiato la struttura degli stadi inglesi. Questo è un tema fortissimo. È ovvio che, però, per esempio, se tu vai a Udine, in Inghilterra stare in piedi, ma sono d'accordo con te, in Italia in teoria esisterebbe come legge, perché c'erano i famosi primi decreti, poi però di deroga in deroga alla fine più o meno è rimasto tutto uguale. Ma comunque non voglio assolutamente passare come il difensore dei teppisti. I teppisti mi fanno schifo. Credo però in assoluto che ci sia, per esempio, nelle forme di protesta adottate dalle due curve di Roma e Lazio, ci sia stato per ora un atteggiamento assolutamente pacifico e assolutamente sereno. Cioè, la libertà di un tifoso che oltretutto magari ha già pagato l'abbonamento di non andare a vedere la sua squadra è una libertà che io mi sento di difendere. Sì, mi sembra assurdo che si discuta di questo. Cioè, mi sembra assurdo che sia una colpa del tifoso decidere che non vuole andare allo stadio. Un po' meno gli insulti. Ma sicuramente. Però voglio dirti, e così come non credo, con tutta la stima, o se vuoi la stima in termini di importanza, che la curva nord che la curva sud della Lazio e della Roma siano così forti da decidere che tutti gli altri non vanno allo stadio. Cioè, se le tribune sono vuote e se c'è una contestazione, per esempio, da tanti anni contro lo Tito, che io non capisco fino in fondo, però questa contestazione c'è, e non è soltanto da parte della curva, perché altrimenti le tribune sarebbero piene, e invece le tribune sono vuote, e le squadre sicuramente sono state vittime di questo. Non ci sono dubbi che Lazio e Roma in questi anni, penso alla Lazio di 2-3 anni fa che poteva andare in Champions League, mi ricordo un Lazio-Atalanta con forse 2000 persone, o la Roma in questo momento della stagione, è ovvio che avrebbe bisogno di avere 60.000. È chiaro che avrebbe, io penso, io avrebbe credo qualche punto in più, che con tutti i limiti di Lotito, un presidente che fa della Lazio una squadra che si gioca la Champions League, probabilmente non è giustificabile null'altro. Sui risultati sportivi, secondo me Lotito aspetta, che c'è Mario dalla provincia di Bari, che è un eroe, che è lì che ci sta aspettando. 800 24 00 24, hanno contestato la Mario. Squadra ritorno da Trapani. Mario, allora, eccoci. Leo è qui. Prego. Allora, volevo dirvi che poco fa siete stati piuttosto ingiusti con Mihajlovic, perché avete fatto il paragone Mihajlovic-Sarri, dicendo che il Milan ha fatto male a prendere Mihajlovic, doveva prendere Sarri. Io vi vorrei ricordare che intanto Sarri è a disposizione il miglior centravanti attualmente del mondo, sì, che è Higuain. Cosa che non ha il Milan. Il Milan aveva puntato su Ibrahimovic, e invece Mihajlovic si è ritrovato con Balotelli, che non ha mai giocato. Kučka al posto di Witzel, che era quello che doveva tenere in mano il centrocampo. E quindi il Milan, secondo me, ha la posizione che merita per la sua rosa. Praticamente tutti sono più forti del Milan, l'Inter, la Juventus, la Roma, il Napoli. Dubito però il Sassuolo, hanno una rosa, Mario, cioè, hanno una rosa più forte del Milan. Solo la Fiorentina forse ha fatto meglio del Milan con la rosa che ha. Beh, io credo che in parte hai ragione Mario, poi dopo però va anche discusso cosa fa un allenatore, se dà un'impronta o meno. Questo Milan di impronta sì, ne ha avuta poche in questi mesi. Il Milan è ancora potenzialmente in grado di ritagliarsi una stagione di alto livello, nel senso che poi se guardiamo la classifica non è così drammatica, quindi si può anche decidere di dare il beneficio del dubbio, e questo lo si può fare ed è quello che sta facendo il Milan in queste ore. Insomma, la classifica non è così catastrofica, però deve cambiare passo il Milan, non ci sono dubbi. Sai chi ha ancora questo dubbio se si possa raddrizzare la stagione? Forse sì. Quelli del Manchester United. Colpito da Mata, il grande ex di questa partita, e Manchester United che comincia alla grande. Già, sembrava la fine del mondo. Quindi Rooney, nuovamente Herrera, largo c'è Martial che può andare a proporre il cross, c'è Ivanovic su di lui, lo butta Martial in area di rigore, Martial che prova, ancora il palo, grande a salvare giocata. Chelsea. Il freddo quando arriva poi va via. Ad Hazard che parte, simile un paio di avversari, poi offre a Pedro in area di rigore, De Gea, grande intervento, Spiliqueta, ancora De Gea, azione tutta spagnola. Io sono ancora qua. Ma Darmian ha un varco, va ancora su Martial, linea di fondo per Martial, parte il cross dentro, Courtois interviene, parata strepitosa di Courtois che fa il paio con quella di De Gea. My relationship with my players, but also with my board and also with the staff members is very good. That is not any reason to sack me. Oh, alla fine resta Van Gaal, saluto Stefano Boldrini. Non ci sono motivi per cacciarmi, ha detto, no, così assolutamente. Buongiorno Boldrini, come stai? Bene, carissimo. Tutto bene? Tutto bene. Com'è la vita in Inghilterra? Fa freddo? Ti copri? Metti no, la canottiera? Piove. Assolutamente. No, la canottiera non l'ho mai usata. Bravo. Però non fa freddo assolutamente. Anzi, sono appena sceso a Londra, una giornata anche discretamente di sole, quindi non possiamo lamentarci. In 15 secondi, siccome continuano ad arrivare messaggi, mi dicono sono le stesse curve che decidono se un derby si può giocare a Pardo, sì, quando vivi. È un'altra cosa. Cioè, quella c'è anche un amico su WhatsApp che ha scritto: le curve sono vuote perché hanno paura di quella. Quella è una storia di 12 anni fa. Io sono contrario all'idea di altri che tutto il motivo della disaffezione di una parte dei tifosi della Roma e della Lazio nei confronti delle loro squadre dipenda dalle curve e da un potere di imposizione nei confronti delle curve. Mi sembra che le tribune siano vuote, mi sembra che ci sia disinteresse o comunque insomma un amore in questo momento deluso, e questo è ciò che mi sembra, sì. E credo che la protesta da parte di gruppi delle curve nel momento nel quale è una protesta civile sia tollerabile, e lo sciopero del tifo è tollerabile, non possiamo costringere le persone ad andare allo stadio. Aspetta che approfittiamo di Boldrini, perché in Inghilterra è bello andare allo stadio, ci sono i parcheggi, ci sono le tettoie, la gente, ci sono i servizi, sì, è ma non è cosa. Che in Italia va nel terzo mondo in tutti gli stadi. Allora, in Inghilterra, scrive un amico, si sta in piedi tranquillamente in curva e si picchiano come prima. Allora, abbiamo Stefano Boldrini che vive negli stadi inglesi. È così, Stefano? Ma noi non dobbiamo mai dimenticare qual era la realtà qui fino a 25 anni fa, che ha portato a una rivoluzione radicale che ha trasformato la First Division, l'ha fatta diventare Premier, e con gli stadi che sono stati completamente ristrutturati dopo la tragedia di Sheffield. E qui il calcio è un'altra cosa sicuramente, ma intanto c'è un'altra cultura sportiva, perché comunque qui il concetto della vittoria, della sconfitta, sono concetti che poi alla fine non condizionano la presenza negli stadi. La gente va a godersi la partita, poi se vince meglio, se perde spesso ci sono gli applausi, poi anche qui per carità ci sono le contestazioni, ma insomma è un altro mondo. Non dobbiamo, ripeto, però dimenticare che 25 anni fa però anni non fa, si sta in piedi dove si vuole, come si vuole, no, in Inghilterra, negli stati inglesi. Qui intanto hanno ristrutturato gli stadi e hanno preso delle misure per questioni di sicurezza. poi qui andare allo stadio è un po' come andare al teatro, andare al cinema, cioè tu vai a goderti uno spettacolo. La gente al cinema, al teatro, non è che sta in piedi, salta. No, costa anche come un teatro, eh? C'è chi scrive ieri 300 sterline, no, per vedere la partita. Costa anche di più. Costa anche di più. Però mediamente sono prezzi. La differenza fra un settore e l'altro è più bassa, se non sbaglio, rispetto all'Italia. No? Cioè costano di più i biglietti popolari. Sì. Il club più caro è l'Arsenal. Qui c'è la politica degli abbonamenti che porta praticamente a riempire gli stadi al 90% già prima del calcio d'inizio della prima giornata. I prezzi sono alti o comunque mediamente alti, senza avere magari quei picchi che si raggiungono certe volte nei nostri, con la differenza che comunque se tu vai in uno stadio inglese c'hai tutti i comfort, ti puoi godere la partita, ci vai senza correre rischi. Certo, adesso c'è un allarme terrorismo che ha portato a intensificare i controlli e le misure di sicurezza. Sì, però scusate, se vogliamo uscire da questa cosa, allora, ad esempio lo Juventus Stadium, che è nuovo, quindi posso immaginare che sia sufficientemente confortevole, le curve sono rimaste, sono lì in piedi, uguali, perché alla fine si è derogato e si è deciso che le curve devono rimanere. Ma allora, il livello di controllo e di identificazione, sì, persona a persona all'interno dello Juventus Stadium è molto migliore, però, così come a Udine. L'operazione fino in fondo non è stata fatta. Questo è l'operazione, credo, quale dovrebbe essere quella di sciogliere le curve, ma anche come di rimozione, è stato fatto. Laddove si continua a vivere dentro quegli spazi come degli spazi a parte, privi di regole o in gran parte di regole, si arriva anche a quello. Che poi è quello che hanno fatto un po' in Inghilterra, quando 25 anni fa si è creato il problema. Però mi fate chiedere di Van Gaal, anche se vedo che il tema appassiona, appassiona parecchio, magari ci torniamo su anche domani. Stefano Boldrini, a parte che ieri c'era questa cosa meravigliosa che Van Gaal dentro diceva non ci sono motivi per cacciarmi, e fuori c'era già il merchandising del Manchester United con la sciarpa di Mourinho. Ieri c'era la sciarpa con il faccione di Mourinho in vendita. L'hai comprata? Ho comprato, no, perché a parte che il Manchester United mi evoca sempre ricordi un po' sgradevoli, quindi sono un po' distratto con il merchandising. Quindi non hai voluto incentivare, non hai voluto dare soldi, ho capito. Posso segnalare che probabilmente le avranno acquistate, perché ieri c'erano, non dei pullman, c'erano dei tir di giapponesi che erano venuti a vedersi Manchester United Chelsea, e ho visto che tornavano negli alberghi carichi, cioè, però guarda che è un buon investimento, perché se non arriva, cioè se non arriva è un oggetto introvabile, capito? Esatto. Fra una settimana magari non le danno, cioè metti che adesso ne prendono un altro, o anzi che fanno? Ma io intanto penso che le parole di ieri di Van Gaal siano state abbastanza chiare. Lui non si rimette, lui è un allenatore che si è dimesso 6 volte su 8, quindi diciamo che c'ha le dimissioni facili. E ieri invece è stato molto chiaro: io da qui non mi muovo, ha detto anche, l'avete lanciato adesso voi, dice non ci sono ragioni perché sì, questo club debba esonerarmi. Ora io vi dico una cosa, sono 18 mesi che c'è Van Gaal, ho visto diverse partite dello United, io questo grande gioco di Van Gaal non l'ho mai visto. Sicuramente diciamo quel bel calcio che lui ha mostrato nell'Ajax e qualche volta nel Barcellona qui è un perfetto sconosciuto. A sua giustificazione va detta che si sta trovando con un problema Rooney, del quale prima o poi bisognerà parlare, perché Rooney non segna dal 3 novembre ed è un giocatore che sta attraversando un momento difficile, perché il problema dello United è che non segna. Fa grande possesso palla, ma sì, non segna. Poi pure, come si dice a Roma, sfigato. Ieri è anche stato un po' sfigatino. Sì, effettivamente sì, è stato anche un po' sfigatino. Poi stasera tifiamo tutti per Ranieri. Lui continua a dire che è un sogno pensare al titolo. Però sai, se anche stasera esce bene col Manchester City, non è detto che magari questo sogno non possa concretizzarsi in qualcosa di più reale. Allora io dico, se Ranieri riesce a portare questa squadra in Europa League fa una grande impresa, se la porta in Champions fa un miracolo, se vince il campionato gli danno la cittadinanza. Andiamo oltre i miracoli. Siamo oltre. Penso che comunque lui stia facendo un grandissimo lavoro. Pensate che l'Ester l'anno scorso a Natale era ultimo, e un anno 12 mesi dopo si è ritrovato in testa alla classifica. E lui ci ha messo del suo, l'organizzazione, un'attenzione difensiva che prima non c'era, E poi bisogna anche dire che la spensieratezza, sai, quando poi vai a vincere e arrivano i risultati diventa tutto facile. Sì, funziona tutto bene. E poi siamo bravi, noi italiani ci trattiamo male tante volte, ma come allenatori non siamo messi male. Abbiamo aperto con Agostinelli che va in Albania, dove pensano benissimo degli allenatori italiani. Probabilmente da oggi penseranno ancora meglio degli allenatori italiani in Inghilterra. Grazie Stefano Boldrini. Ciao, buona serata. Auguri. Ciao, ciao. Grazie Stefano. 800 24 00 24, voglio riservarmi uno spazio alla fine per il Nerofer. Luca da Milano. Luca, ciao a tutti. Ciao. Eccoci. Ciao Luca. Ciao. Io avevo due domande che sicuramente voi siete più esperti di me. Io di quello che ho sentito, come tutti, di Cristiano Ronaldo, che sicuramente se ne andrà via la prossima estate, è il dubbio di Morata, in più si mette anche Zaza che lo vogliono mandare via, ma non si fa un errore a tipo Coman che sarà andato al Bayern Monaco secondo voi? Con Zaza? Esatto. Beh, Zaza... si manda via anche Zaza che comunque ormai è affermato, penso, già dalle stagioni scorse fino anche questa nelle sue presenze comunque ha sempre lasciato l'impronta, possiamo dire. Non vorrei mai che fosse un errore tipo Coman che alla fine è andato via e si vede che comunque c'è il rimpianto. Sì, è un giocatore che può diventare importante, però è andato via bene, eh? La Juve, se il Bayern lo riscatta, l'ha venduto bene per essere un diciottenne. Sì, io penso che Zaza sia certamente un giocatore che ha mercato, non ci sono dubbi, uno di quegli attaccanti secondo me che risolverebbero o contribuirebbero a risolvere i problemi di parecchie squadre di fascia media in Italia, quindi da questo punto di vista sicuramente può esserci questa tentazione per quanto riguarda la Juve, però insomma in assoluto potrebbe esserci anche il dubbio che non sia proprio un giocatore da Juve, anche se devo dire che il quoziente minuti giocati col Fatti è eccellente, quindi quando vede segna, insomma, però... mi sento abbastanza di rassicurare il nostro ascoltatore, nel senso non credo che la Juve andrà via Zaza senza prendere un sostituto, insomma mi sembra che verrà fatta una valutazione. Lavora bene sui giovani, ha fermato Mandragora, sta fermando la Padula che è il nuovo bomber che cresce dalla Serie B. Raffaele da Roma. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Volevo rivolgere due domande a te, sì. Luigi, non perché sia di Roma, come dici, potremmo avere un afflato. Raffaele, dici. Potremmo essere un afflato per quello che sto per dire. Io mi trovo indignazione generale per quello, per la squalifica combinata a Platini, quando Maradona sono anni che va dicendo queste cose a modo suo, ma per carità, Maradona ha tacciato di essere un uomo di M puntini puntini solo perché si prende la droga per anni facendo male a se stesso e non alterando, sappiamo, le prestazioni sportive, soprattutto perché non aveva bisogno, ma quello poteva non significare. Sì, però non ho capito il parallelismo con Platini, sinceramente. Non c'è, prego. Indignazione per Platini per una squalifica di 8 anni, è stato massacrato Diego Armando Maradona essendo tacciato di essere un uomo che parla troppo, che parla a sì, proposito. Sì, però non ho capito cosa dovevano fare di più a Platini. Non ho capito cosa dovevano fare di più a Platini, di fatto l'hanno messo fuori, gli hanno stroncato la carriera. A mezzo stampa in Italia, sicuramente, che sicuramente. La Juve, il Milan e l'Inter, io sono un tifoso del Napoli pur stando a Roma, ma voglio dire che Napoli è secondo in classifica, voi per fortuna ne parlate, infatti vi chiamo con ammirazione, seguo la vostra trasmissione, ma il trend è quello di parlare sempre di quelle squadre. Guarda, scusate, dico la seconda cosa, sì, così mi potete rispondere e non vi disturbo. Io sono stato a cena con un grosso giocatore, non vi faccio il nome per il suo rispetto, che mi ha illuminato, che si chiama Gianfranco, eccetera, eccetera, giocava con il Verona ed era un fuori classe, credo che abbia una settantina d'anni, era una persona molto estrosa, e Pardo sa a chi mi riferisco, certo. Anche lei. Ecco, questa persona mi ha detto di aver fatto una carriera contro gli arbitri e mi ha detto, vada bene, che di fronte a certe squadre, non rifacciamo i nomi, esiste la desistenza da parte delle squadre, che è indimostrabile. Siccome la moviola oggi è l'unico mezzo per potersi azzuffare sulla metropolitana, i bar, ecco, chiamare le radio, far scrivere i giornali e dire no, l'episodio c'è secondo me o non c'è secondo me, lui mi ha detto che il mollismo è indimostrabile, cioè se una squadra si pone al cospetto di una squadra forte e non si impegna, non lo dimostrerai mai con nessuna moviola. Grazie. Dai, Pier, che parlato con Gianfranco, credo abbia giocato anche con la Juve, sì. Oltre che con la Roma. No, su Platini, sicuramente Platini aveva un'immagine e una simpatia, anche un rapporto personale nei confronti di molti giornalisti, che in qualche modo porta ad essere in solidarietà con lui. Sicuramente ha ragione l'ascoltatore, cioè io poi penso che alla fine, se ci sono le condanne vanno accettate fino a prova contraria. Nel momento nel quale una condanna viene fatta, una squalifica viene data, deve essere accettata. Quindi, sì, poi ci sarà umanamente come simpatia personale, ho più simpatia per Maradona che per Platini, nel senso che di Maradona mi piace questo aspetto letterario. Platini è una persona molto simpatica, di grande fascino, di grande carisma, e sono d'accordo con l'idea che magari nei confronti di Platini si usa, rispetto per esempio allo stesso Blatter, un tipo di, no, di benevolenza diverso, dovuta al personaggio, che è un personaggio oggettivamente simpatico, charmant, che ci ricordiamo. Pier, abbiamo meno di due minuti per Gianmario Bonzi in Nerofer. Ciao Gianmario. Buongiorno a tutti, ciao. Meno di due minuti, che è più o meno il tempo che Nerofer ha trascorso con un palo legato dietro, con la maschera spostata, discesa libera di Santa Caterina Valfurva. Dici come si fa ad arrivare quarti, sciando così come ha sciato in Nerofer. Andatevi a cercare il video perché è qualcosa di meraviglioso. Si fa un'impresa, però resta l'enorme rimpianto, perché a mio avviso avrebbe vinto oggi in Nerofer, che era stato il migliore nella seconda prova cronometrata. È successa una cosa che francamente non ho mai visto in 30 anni di sci: può capitare che ti finisca il telo addosso, ma che ti rimanga attaccato un pezzo di palo, sinceramente non l'avevo mai visto. Anche però, pericoloso, Sì, pericoloso, però diverso rispetto al drone che cade, come è successo a Hirscher a Campiglio. Qui non ci si può fare niente, non è colpa di nessuno. Là c'era probabilmente una questione legata a come è stato costruito e montato il drone. Qui è una situazione che si può verificare, anche se, ripeto, non si è mai verificata. Tanti complimenti ai Nerofer, ma sinceramente l'avete visto anche tanta rabbia, perché oggi era pronto per vincere, onestamente. Secondo me lo avrebbe fatto, però alla fine festeggiamo, perché è un'impresa incredibile questo quarto posto. Sì, quarto, 7 centesimi dal podio. Oggi un po' sfigati, come Manchester United, tutti gli italiani, però perché io credo... Fila ha perso uno sci, l'altro ha incrociato le punte ed era forse da podio, l'altro è Dominic Paris. Dico che se non è di solo vittorie che vive l'uomo, io credo che oggi Nerofer abbia, suo malgrado, disegnato e costruito e scritto una pagina assolutamente nuova e inedita. E sì, alla fine e lo ricorderanno per questo. Quindi voglio dire, sarà tante altre cose. Al di là del quarto posto a pochi centesimi. Già Mario, cioè, il rischio è questo, che alla fine lo ricorderanno per questo pezzo di discesa libera. Sì, però oggi è l'uomo della giornata, cioè non c'è dubbio. Certo. È chiaro che vale una vittoria quello che ha fatto. No, a rischio non penso che ci sia, tutto sommato, perché Nerofer è stato campione del mondo in Super G, ha vinto un argento e un bronzo olimpico, quindi credo che ci regalerà altre vittorie. Diciamo che si parlerà a lungo sicuramente di questa discesa. Certo. Non c'è dubbio. Grazie Gianmario. Grazie a voi. Grazie, ciao, Gianmario, ciao, Bonzi, ciao. Eurosport, ci fermiamo qui. Io ringrazio Giovanni Melchiori in redazione, Pietro Lacorte in regia. Pier, ci sentiamo nei prossimi giorni. Sì, noi torniamo domani dopo il GR delle 14. Ciao. Ciao.